da furbi, solo per i coglioni. Borghesia, sei talmente spaventata dalla puzza di miseria che hai venduto pure i figli solo per metterti un guinzaglio. E ho capito che sei brava a tirare sul prezzo. Prova. Solamente. Ah, sono due. Sì. Sa. Oh, ecco. Vado? Ok. Allora. Buonasera e grazie di essere qua. Allora, bisognerebbe che con questo, diciamo, inizio ci fosse anche una foto, ma la foto ve la faccio vedere, sta qui. Vabbè. Guardate questa bambina. Questa bambina sono io. Ho le piume in testa e delle foglie in mano. È il 5 settembre del 1976 e Democrazia Proletaria festeggia anche sul Monte Amiata le elezioni politiche del 20 giugno, dove ha preso l'1,5%, 6 deputati. In effetti da festeggiare c'è poco, ma io queste cose non le so e per me in quel momento è una festa. Come quando Babbo ha dipinto di rosso la porta della sede del PDUP di Grosseto. E a me questo nome, PDUP, mi sembra che rimbalzi. Il PDUP rappresenta davvero poche persone, mentre il PC ha preso quasi il 35% dei voti. Ma per me il PDUP è la politica, si chiama così, ha la lettera maiuscola e la porta rossa. E poi la fanno mio padre e i suoi amici, che mi piacciono, perché mi raccontano la favola di Mao Zedong. La politica la fanno i maschi, questo lo so, mentre mamma e le sue amiche fanno il femminismo, che forse mi piace pure di più della politica, perché si canta. Oltre la politica e il femminismo c'è mia nonna, che è il mondo. Per mia nonna il femminismo non esiste, la politica non ha la maiuscola e si chiama solo PC, perché ha avuto un fratello senatore e ancora mi parla di quella volta nel 1946, quando l'hanno portata a una manifestazione a Roma per festeggiare la Repubblica, dove avrebbe dovuto parlare e suo fratello non le ha fatto aprire bocca, ma per lei è un bel ricordo. Poi c'è la città, che è Grosseto, ma per me è un perimetro che parte dal ponte della ferrovia e arriva a via Orcagna, dove c'è la terra, nonna la chiama così, campi coltivati dove si va in bicicletta dopo scuola per accudire i conigli e le galline, le rose e c'è la cantina con le botti e un odore di vino buono. Così, riassumendo, negli anni 70, per me bambina, le cose che esistono sono il femminismo, la politica, il mondo e la città. Linus in bagno da leggere, mentre ancora non ci sono i cartoni animati giapponesi e soprattutto ancora non c'è l'eroina, che cambierà di lì a poco il mondo, il femminismo e la politica, ma soprattutto la città. Allora, buonasera. Questo era l'inizio di questo libro che presentiamo in questo momento con l'autrice Vanessa Roghi, Piccola città, una storia comune di eroina. Come avete sentito e come anticipa in modo molto brillante e chiaro questo incipit, è un libro che per l'appunto parla di eroina, ma attraverso questa lente, come spesso succede in tanti libri, devo dire, riusciti, si parla un po' di tutto, soprattutto di quello che è successo a una generazione, se vogliamo, ma quello che è successo a un paese intero attraverso questa lente. La lente è l'eroina, la lente è la piccola città, la provincia, la città piccola, è stato detto, è Grosseto, e in una città che può essere probabilmente derubricata all'ultima delle città possibili che sono rappresentative, e questo è uno dei grandi probabilmente pregi della letteratura in generale, si può tirar fuori la comprensione di un mondo. La sensazione che io ho avuto leggendo questo libro è proprio questa, è la sensazione di svegliarmi un attimo, di dire ma che cosa è successo fino ad oggi, è così. Queste sono cose che capitano particolarmente bene con i libri che tracciano una storia. Di fatto si parla di un libro che parla di storia, del resto l'autrice è storica e questo tipo di percezione si sente all'interno di un libro che è difficile da catalogare effettivamente, e questo per un editore è dura, perché come lo poni un libro, cioè, ma questo è narrativa, ma questo è saggistica, ma questo è un reportage, è un libro storico, e tutte queste cose insieme probabilmente ed è effettivamente efficace la forma in cui poi viene posto. La prosa, l'avete sentita, è una prosa pulita che riesce a narrare in modo molto lineare, quindi in un percorso che può sembrare biografico, tutta una storia che poi, e come si è sentito, parla anche di politica, perché c'è tanto, tanto del Partito Comunista e delle sorti di un'ideologia dentro questa cosa, perché poi appunto l'eroina interviene come evento scardinante una quantità di dinamiche e riesce a farci capire attraverso questa storia, questo percorso, anche quello che è la sorte di una politica, di un'ideologia che, se ci giriamo indietro e guardiamo a quello che è successo, probabilmente ha avuto un'evoluzione senz'altro segnata da questo tipo di periodo, senz'altro segnata da questo tipo di caratteristica. Ora, la cosa che di tradizione poi si chiede a un autore, che però è una curiosità anche mia e di conseguenza anche informalmente, io ricordo che lessi un articolo su Minima e Morale, se non sbaglio, era uscì un articolo che era l'anticipazione in qualche modo di questo libro, un estratto effettivamente illuminante, perché parlava di Città e di eroina e ricostruiva esattamente questo tipo di processo, ma il legame che sentivo più forte era proprio la capacità di rappresentare un'epoca, una generazione, se vogliamo, ma una generazione non nostra, una generazione che è quella dei nostri genitori, che però evidentemente ci ha portato qua. Si fa un gran parlare, no, di quello che ci è stato lasciato in eredità in qualche modo dalla generazione che ci ha creati, e non si fa mai invece un gran parlare della formazione di questa generazione. Questo forse è l'occasione per parlarne. Dopo questo articolo poi è uscito il libro, quindi sicuramente è un processo che è iniziato un tempo fa, immagino. Ecco, come è iniziato e perché l'esigenza adesso di narrarlo, quando l'hai sentita, come è la genesi poi di tutto questo? Questa è la mia domanda. Allora, sì, io questo libro ce l'avevo in testa ovviamente da sempre, cioè da più o meno da quando nel novembre dell'87 arrestarono mio padre per uso e spaccio, detenzione, spaccio di eroina. E facevo la quinta ginnasio a Grosseto, nell'unico liceo classico, una città di provincia, vi potete immaginare, insomma, se un liceo classico, diciamo, è per antonomasia conformista in un posto anche come può essere Firenze, in una città come Grosseto dove il liceo è uno, insomma, chiaramente il conformismo era ancora più accentuato. Io da quel momento ho capito che volevo elaborarla questa storia, però non sapevo bene come fare. Poi ho iniziato a fare storia all'università, ho deciso che avrei fatto la storica nella vita, ma appunto mi sono formata con una storiografia di tradizione politica molto classica, se vogliamo dirlo, no, Carlo? Cioè qua io abbiamo avuto lo stesso professore, Franco De Felice, che effettivamente appunto mi aveva insegnato a ragionare sulla storia contemporanea come una storia essenzialmente politica, anche se effettivamente c'è qualcosa in quello che ho imparato da lui che mi ha aiutato anche a scardinare questo sguardo così granitico, insomma, su quello che doveva essere il racconto storico della contemporaneità. Però, insomma, per anni ho separato le due cose. Ho pensato che uno storico dovesse occuparsi soprattutto di una distanza temporale, in qualche modo, che io ancora non avevo, di cose che in qualche modo dalle quali prendere appunto una giusta distanza, e quindi ho sempre cercato questa giusta distanza. Ma poi soprattutto c'era una questione di metodo e di fonti, no? Cioè dovevo scrivere un libro di storia dell'eroina, di storia di una generazione, ma poi mio padre come c'entrava dentro questa storia dell'eroina e della generazione? Insomma, per anni, come dire, ho girato intorno a questa cosa senza capire esattamente qual era la forma da dare a questa storia. Poi ci sono stati due libri che mi hanno in qualche modo aiutata a ripensare anche veramente quello che io volevo fare da grande. Un libro è stato, ovviamente stiamo parlando, no, dei grandi modelli, delle spalle dei giganti sui quali vogliamo appoggiarci, è stato quando ho letto Limonov di Carrère. Quando ho letto Limonov ho detto, porca miseria, ma guarda come si può prendere un oggetto di storia e raccontarlo in modo, non solo, come dire, entusiasmante, ma mettendocisi dentro, no? Usando l'io. Ovviamente Carrère non è uno storico, però è figlio di una storica, è uno che, come dire, sul metodo storico ci ha ragionato tanto nella vita. E quel suo io, dentro i suoi libri di storia, io ho pensato, no, un po' tipo, ora voi siete tutti un po' più giovani, però tipo Grisù, no? Quello, il draghetto che voleva fare il pompiere. Io ho detto, cavolo, io voglio fare esattamente quello proprio da grande, voglio fare Carrère. Ovviamente però rimaneva dentro di me questa grande legge morale della storiografia, qua incarnata da un caro amico Roberto Bianchi, che mi diceva, però mettersi dentro con questo io è rischioso, e è vero, c'ho tutti i messaggi, poi ve li faccio vedere, e è rischioso l'io, perché insomma l'io, la prima persona dentro un libro che vuole essere storico, insomma è un rischio, no? È un rischio, e cioè, avevi ragione, è un rischio infatti. E poi è uscito il libro d'Alberto Prunetti, Amianto. Qua abbiamo l'editore Alegre, un libro bellissimo, bellissimo, sta qua fuori, compratelo. E, Alberto Prunetti viene da Follonica, che è un paesazzo, provincia di Grosseto, posso rivendicarla questa cosa, però effettivamente Follonica, essendo cittadina operaia, a differenza di Grosseto, era un luogo anche da noi ragazzetti che facevano politica a Grosseto guardato un po' come un luogo mitologico, no? Lì ci stanno i figli degli operai, no? Per noi che stavamo in una città tutta di terziario e campagna, era una specie di miraggio queste riunioni con i compagni di Follonica, che appunto c'avevano la fabbrica. Alberto ha scritto un libro bellissimo nel quale racconta la storia di suo padre, ci si mette dentro, dell'amianto che ha ammazzato suo padre, della fabbrica, della città, del rapporto della città con la storia. E io lì ho pensato, cazzo, se lo fa uno di Follonica lo posso fare pure io. No, scherzo. Però insomma, per me Amianto è stato veramente un libro importante, scardinante. Poi però c'è stata un'emergenza nella mia vita, e l'emergenza è stata dettata sempre da fatti autobiografici, cioè un rapporto burrascoso con la scuola di una delle mie figlie. Allora ho detto, adesso metto un attimo da parte la questione dell'eroina e di mio padre, perché devo occuparmi di scuola, e ho scritto il libro su Don Milani e Lettera a una professoressa. Quello per me è stato importante, perché lì ho capito una cosa, veramente da un punto di vista di metodo, che a me interessava lavorare sulle marginalità. Cioè, a me, avevo letto un libro molto bello che ha scritto uno storico inglese che si chiama David Forgach. David Forgach è uno storico inglese che ha tradotto Gramsci, ha portato negli studi della storia culturale italiana, gli studi culturali, è veramente per me un grande maestro. E David aveva scritto un libro bellissimo e poco conosciuto che si chiamava Margini d'Italia, nel quale prendeva tutta una serie di storie italiane e le analizzava attraverso lo sguardo delle marginalità e dei margini. Cioè, i margini che cosa sono? I margini sono un modo di guardare, che è un modo di guardare che è legato al rapporto fra individuo e, in qualche modo, geografia. Cioè, lo spazio urbano determina la marginalità. Il margine è proprio un luogo che si può tracciare su una carta geografica, come facevano nell'Ottocento, quando facevano le carte della povertà di Londra, non so se le avete mai viste, no? Queste carte della povertà di Londra che Engels aveva ben presenti quando lavorava sui poveri, appunto, londinesi, nelle quali i margini erano anche nel centro della città, ma segnati di un colore diverso. Allora io mi sono fatta in testa questa sorta di mappa, appunto, delle marginalità che mi interessava affrontare. E quali erano le marginalità? Erano i ragazzi bocciati? E poi, appunto, gli eroinomani. A quel punto ho avuto, capisco che può sembrare un percorso tortuoso, però uno storico deve sempre trovare una giustificazione metodologica, no? Poi per riuscire ad affrontare un tema. E lì ho capito che quello era il mio sguardo, era il mio metodo, era la mia distanza. Cioè, era questa mappa delle marginalità nella storia dell'Italia contemporanea dentro la quale gli eroinomani stavano a pieno titolo, e quindi in qualche modo mio padre diventava un eroe di questa ricostruzione, di questa mappatura che mi ero fatta. E quindi, diciamo, a quel punto mi sono sentita in grado di scrivere questo libro, che poi ho scritto veramente molto velocemente, ma ci pensavo, insomma, da tantissimo tempo. Bene, altra cosa, il libro va avanti in modo molto chiaro, nitido, lineare ed è intervallato da voci. Anche questa è una scelta che io trovo che, sì, oltre al discorso poi che hai fatto adesso, quindi la metodologia storica, la scelta di creare poi un libro che andasse a tracciare questo tipo di percorso che tu desideravi, ma allo stesso tempo poi c'è da renderlo in prosa, ecco lì la prima persona è pericolosa, però allo stesso tempo la prima persona probabilmente è anche quella chiave che permette di avvicinarsi. Poi magari su questo ci ritorniamo, perché ora uno dice editorialmente va di moda l'autofiction, poi questa non è esattamente un'autofiction, non la è, però in qualche modo la prima persona può far ricordare questo e può far ricordare questo metodo. Però effettivamente dal punto di vista narrativo e dal punto di vista del lettore è molto utile per poter dare quel passaggio che è l'immedesimazione, che poi in qualche maniera porta a quel contagio che serve al lettore per potersi identificare probabilmente in un periodo, parlo per me, che comunque passano credo una decina di anni tra noi due, siamo di una generazione simile ma non è la stessa, e comunque vada, serve un tipo di approccio che sia più vicino. Questo tipo di vicinanza è importante in libri come questo, perché questo tipo di vicinanza è qualcosa che dà la possibilità di essere letto a chi effettivamente potrebbe non avere questo tipo di mezzi, quindi svolge anche una doppia funzione, e di costruzione storica ma anche di suggestione narrativa in qualche maniera. Ecco perché dicevo che non è incasellabile, perché ha tanti registri, e in più credo in maniera forse, non lo so, ragionata dopo oppure venuta fin dall'inizio, è intervallato da voci di chi ha già parlato di questo, perché ricordiamoci che stiamo parlando e di un tema e di un territorio. Ci sono bellissime citazioni di Cassola, di Bianciardi, insomma tutta una serie di, come dire, coordinate, ecco, perché tu prima parlavi anche di geografia, c'è anche questo tipo di geografia, stiamo parlando di un luogo e stiamo parlando di un tema come fosse un luogo in qualche maniera, e questa serie di coordinate è bello, come dire, ci sono voci suggestive, forse anche più autorevoli di me, che hanno già parlato di questo. Ecco, io non le metto soltanto come fonti bibliografiche, ma lascio anche che siano loro stesse a parlare, quindi intervallo ogni capitolo da questo tipo di voci. Ecco, la domanda è: questo tipo di procedimento nasce durante la stesura o nasce a posteriori, come dire, sento qualcosa che manca e allora voglio equilibrarlo, voglio completarlo, voglio riempirlo attraverso questo tipo di processo? No, questa è stata una struttura immediata, nel senso che io da subito ho pensato che volevo tracciare, mentre scrivevo il libro, una genealogia proprio del discorso sulla provincia, la dipendenza e l'eroina. E quindi ho pensato che il modo più onesto per farlo fosse quello lì di intervallare ogni capitolo con appunto quelle che ho chiamato voci, che sono fonti fondamentalmente, fonti che vanno da una prima descrizione di Cassola, che appunto visse a Grosseto, della Grosseto che stava per essere trasformata dal boom edilizio, alle voci dei tossici che scrivevano alle riviste, alle prime inchieste, a poi fino ad arrivare alla fine, lo dicevamo prima, ha una voce, una di queste voci, che è appunto il resoconto di una discussione avuta su Facebook mentre stavo finendo il libro, quando appunto chiesi su Facebook: ma a voi, quando eravate ragazzini, ve lo dicevano che c'erano le caramelle, che fuori da scuola regalavano le caramelle con la droga? È uscita fuori ovviamente una discussione esilarante su questa roba, che però in qualche modo è uno strumento per verificare appunto quanto poi i luoghi comuni, le mitologie urbane così sono diffuse a livello nazionale, e quanto hanno segnato generazionalmente persone che vivevano in contesti completamente diversi, per cui appunto si va dalle caramelle con la droga alla, secondo me più bella, alle figurine con la droga, cioè che se leccavi le figurine dietro c'era la droga, insomma. Per cui tutto questo ovviamente viene usato come anche una sorta di programma, nel senso che come si può fare storia culturale, appunto, no? Proviamo a mettere insieme tutta una serie di fonti, quelle più tradizionali, Cassola, Bianciardi, per parlare della provincia, mettiamoci dentro le fonti, proprio quelle storiche sull'eroina, che sono le inchieste di Cancrini, Arnao, Blumir, insomma, così, e poi però mettiamoci anche l'aspetto della rappresentazione, che a me interessa molto sondare, perché poi questo libro parla dell'eroina, ma parla anche molto del discorso sull'eroina, che forse è la cosa che mi interessava di più, perché è quello con il quale più difficilmente riusciamo a fare i conti, insomma, no? Perché poi alla fine le storie e i dati sono facilmente raccontabili, invece il discorso è sempre più scivoloso su questo tema nello specifico. Guarda, mi viene in mente una cosa. Io ho lavorato per un paio d'anni in psichiatria a Orbetello, tra l'altro, cioè Orbetello e nelle colline dell'Albegna, in quell'area bassa lì dove c'è un isolamento incredibile. E una delle caratteristiche del servizio era la guerra allo stereotipo, la guerra allo stigma, ma allo stesso tempo allo stereotipo, perché in psichiatria era uno dei principi che ovviamente isolava ancora di più la persona che si ritrovava a usufruire del servizio psichiatrico. Ora, me ne andai anche perché io non trovavo, cioè, più che dire dobbiamo combattere gli stereotipi, poi non li combattevamo in nessuna maniera, era soltanto un monito, un agitare un po' il dito all'aria a vanvera. Ecco, invece qual è il modo reale per non disintegrarli, ma disciogliergli, questi stereotipi, appunto il discorso sull'eroina, che poi è qualcosa di cui effettivamente non è che si sa così tanto. Ora, anch'io, e magari questo ne parliamo anche dopo, vengo da dove sei nata, da Orbetello, ci ho vissuto comunque vada diversi anni, senz'altro 18 di seguito, poi dopo ci sono tornato, però insomma conosco in qualche modo Orbetello, era chiamata Robetello non a caso, quindi insomma conosco anch'io in qualche modo il discorso sull'eroina. Eppure, vivendo in queste situazioni di provincia così piene di eroina, il discorso sull'eroina non è mai così chiaro, perfino le persone che vivono là dentro non ce l'hanno chiara questa cosa. Allora, ripeto, qual è il discorso migliore? Qual è la maniera migliore di evitarlo, lo stereotipo, raccontarlo in una maniera chiara? Raccontarlo in una maniera chiara e soprattutto che sia, appunto, come si diceva, nitida, e nitida nella maniera in cui si sciolgono dei nodi, e questo ripercorrere la storia e questo incrociare narrazione e storia sicuramente è la versione migliore, più cristallina, che possiamo dare di un discorso sull'eroina. La versione migliore anche per poi evitarlo, questo stereotipo, perché alla luce di una lettura di questo genere è difficile che uno si metta a generalizzare sull'eroina, anche perché le storie sono questo, sono la profondità di mondi che spesso e volentieri sintetizziamo per necessità di probabilmente loquela o analisi, perché ci resterebbe troppo complesso star qui a elencare la complessità, appunto, la difficoltà di un discorso, la molteplicità di elementi che emergono quando si parla di qualcosa di così difficile, e in qualche modo invece, se noi riusciamo a raccontarlo, tiriamo fuori tutte le storie da quei cassetti in cui le abbiamo piazzate perché era complesso doverle far circolare. Far circolare storie è in qualche modo una missione che forse in qualche modo anch'io condivido, perché l'editoria per me è anche questo, cioè è andare contro la costruzione di stereotipi e decostruirli, ma usando una contronarrazione, non ostacolandoli, ma riuscendo in qualche modo a mettere in circolo quello che è la vera storia. E forse è anche un'occasione per fare i conti con se stessi. E secondo me, e questa è una mia personale lettura, la bontà di questa cosa sta anche in questo tipo in questo modo di porsi nei confronti della narrazione. Cioè, io so che è qualcuno che in realtà mi sta raccontando la sua vita, e per questo motivo è meno freddo, è più autentico. Questo tipo di autenticità forse è proprio una cifra che porta questo libro a quello che dicevamo prima, a una generazione che in qualche modo ha voluto fare i conti con se stessa personalmente. Parlavamo, penso che si possa dire, della presentazione che è stata fatta con Teresa Ciabatti, che ha la stessa età di Vanessa, che l'anno scorso ha scritto un libro, in realtà quello proprio autofiction, proprio più pura, su suo padre. Guarda caso, stava Orbetello, io sono di Orbetello, quindi cioè, evidentemente la persona più titolata a presentare questo libro proprio per questo motivo, che fra l'altro, cioè, la cosa divertente è che Follonica è a 50 km da Grosseto, Orbetello è a 50 km da Grosseto a sud, quindi siamo proprio una sorta di triangolo delle Bermude a questo punto. Però anche qui, anche in questo caso, era una generazione che andava a analizzare quello che il genitore aveva fatto per poi ricostruire la propria vita. Ed è bella la frase che Teresa Ciabatti dice, cioè nel senso, io avevo tutto per essere una principessa, lo dice anche nel libro, e ho scritto un libro terribile, dolorosissimo, tu che avevi una condizione completamente diversa hai scritto un libro in realtà in cui c'è una sorta di dichiarazione d'amore poi in qualche modo. Tu mi dici, questa cosa mi ha fatto commuovere, ma allo stesso tempo ti chiedo, tu era questo l'intento che avevi davvero o è poi qualcosa che è venuto fuori casualmente? Ma allora, hai detto tante cose, quindi diciamo, però appunto partendo dall'ultima, io ovviamente non è che avessi intenzione né di assolvere né di condannare nessuno quando ho iniziato a lavorare su questo libro. Volevo semplicemente ricostruire la storia di un individuo all'interno di una storia collettiva e volevo farlo appunto andando ad affrontare storia e rappresentazione. E, il mio starci dentro non voleva essere un modo di dire guardate questa è una storia vera, ma voleva essere anzi proprio un dire guardate questa è una storia che io, come dire, alterno fra una ricostruzione storica più tradizionale e la mia voce, sempre per fare un passo indietro rispetto alla, come dire, alla pretesa di esaustività, alla pretesa di come dire, le cose come sono andate, no? Una pretesa in qualche modo che ovviamente la storiografia deve avere, ma che in questo caso proprio anche nello specifico per il tema in questione io sentivo che non funzionava, perché appunto io non posso, no? La questione poi della scelta che è determinante rispetto alla questione della tossicodipendenza, ecco, io quella non potevo raccontarla, no? È come io, occupandomi poi, mi sono occupata anche tanto di preti, ora stavolta mi sono occupata di preti e di eroinomani, poi un giorno ne parlerò con un analista, però anche sta cosa dei preti, no? Può venire fuori anche una fiction su un prete. Sì, infatti a un certo punto, tutti mi prendevano in giro, dicevano, vedrai che alla fine si scoprirà che pure Don Milani si faceva le pere, dico no, veramente no, però, no, ora, a parte gli scherzi, però che cosa è, ora, la prima volta che ci pensa pubblicamente a questa cosa, cioè che cos'è che unisce l'insondabilità di queste due dimensioni? È la questione della scelta, no? Io non sono mai entrata nel merito del momento della conversione di Don Milani o di Don Giuseppe De Luca, è un altro prete che mi ha tanto appassionato nella vita, nel senso che uno, come dire, quella cosa lì la c'è, cioè si fida, allora vabbè, a un certo punto hai deciso che eri credente, no, che poi è veramente la sospensione della credulità per me che sono atea, l'idea che si possa essere in buona fede credenti, ora lo so che sembra buffo da dire così, però io mi fido del fatto che tu a un certo punto hai scelto di essere questo, no? Allora io lavoro su quello che viene dopo, in seguito a questa tua scelta, io mi fido del fatto che tu a un certo punto hai deciso di iniziare a farti le pere. Okay. Io però voglio lavorare su tutto quello che ci hai avuto intorno fino a quel momento e quello che è uscito fuori dopo su questa tua scelta a livello collettivo, perché, e questo secondo me è appunto la dimensione individuale della scelta che è determinante nella storia degli esseri umani, è da un lato insondabile, ma dall'altro secondo me c'è necessità di metterla sempre al centro del discorso storiografico, perché altrimenti si rischia veramente un determinismo, cioè come se noi fossimo segnati o dal luogo in cui veniamo, da cui veniamo, o dagli eventi, o dal momento storico, insomma tutta una serie di questioni che ci aprono delle autostrade davanti, no? E invece poi c'è un momento che fa sì che di fronte allo stesso percorso di vita, la stessa nascita, la stessa cosa così, io divento prete, io, cioè, in classe con Don Milani c'erano Oreste Del Buono e Saverio Tutino, uno ha fondato Linus, uno è andato a Barbiana e uno ha fatto il Partigiano e poi l'archivio del giornalista dell'Unità. No? Ora, allora, appunto, tante possibilità, tante storie e poi il momento della scelta. Quindi questa per me è una cosa importante che in qualche modo rivendico anche mettendoci poi la mia voce dentro a ricordare sempre che ogni storia in qualche modo è una storia individuale. Rispetto invece al rapporto col libro della Ciabatti e a questa domanda, appunto, io ovviamente sono stata arrabbiata con mio padre tantissimo per anni e anche per questo probabilmente per anni io questo libro non l'ho scritto. Ho smesso di essere arrabbiata con lui quando sono diventata anch'io madre e questo sembra banale, ma insomma è così e ho quindi in qualche modo risolto certe questioni dell'essere figlia, ma in realtà però, e questa è una frase che io riporto nel libro, mi tormentava una citazione di De André e mi sorprendo ancora a misurarmi su di loro, no? Cioè a me mi sorprende questa cosa generazionale di doversi misurare comunque con questa generazione poi probabilmente l'altra sera ho presentato un libro scritto da una persona, da uno dei fondatori del Manifesto, e c'erano lì tre fondatori del Manifesto che dicevano: Madonna, com'era faticoso essere figli dei nostri padri. E gli ho detto: sì, ma non sapete quanto era faticoso per noi essere figli vostri? Quindi, appunto, ogni generazione deve fare i conti con i propri padri. Però io, forse anche per il fatto che appunto io sono una storica, Teresa è una scrittrice pura, insomma, lei il suo groviglio l'ha portato dentro tutto in questo libro bellissimo e terribile, ed è un groviglio che non si è mai sciolto. Io penso, per quanto insomma è possibile, di averlo sciolto anche scrivendo questo libro. Che scusate, vi devo dire una cosa, che mio padre, perché mentre lo scrivevo, ovviamente, io mandavo ogni capitolo lo mandavo a mio padre, che vive in Olanda, chiedendogli di leggerlo. E lui tutte le volte mi mandava i messaggi su WhatsApp e mi diceva: tutto a posto. Sapete, col pollice, no? Proprio. Io dicevo: ok, tutto a posto. Dopodiché il libro esce, cioè esce in libreria, io gli mando la copia cartacea e lui dopo un mese mi telefona e mi fa: senti Vanessa, ti volevo dire che ho letto il libro. Dico: hai riletto il libro? E lui mi fa: no, l'ho proprio letto per la prima volta. Sapete il momento in cui tu, fanno 40 gradi ma congeli dentro di te perché pensi immediatamente a tutti i film in cui i padri fanno causa ai figli, cioè avvocati, e dici così? Quindi ho sospeso proprio, non ho respirato, e lui mi ha detto: no, è bellissimo, ti volevo ringraziare. E lì chiaramente lui era commosso, io ero commossa, così, però non l'aveva letto una pagina mentre lo scrivevo, quindi poteva andare veramente a finire malissimo questa storia. Per fortuna è finita bene. A me viene in mente che forse la pace la si fa proprio perché si utilizza questo tipo di processo, il processo storico, questo tipo di lettura. Io quello ne parlo invece stavolta dal lettore. Io quello che ho sentito leggendo questo libro è la stessa sensazione che tutte quelle narrazioni, io sono un appassionato di narrazioni di provincia, non è un caso, insomma, aver vissuto in provincia, questa fascinazione della provincia, e c'è tanta letteratura che porta fuori, non fuori dalla provincia fisicamente, ma fuori dalla provincia con la possibilità di immaginare, l'immaginazione. Invece qui ho sentito una sorta di catarsi della provincia, raccontandola in realtà nelle sue forme strettamente reali, cioè questa capacità di rendere la cronaca qualcosa di in qualche modo meraviglioso, cioè la meraviglia che non nasce dalla possibilità di creare altri mondi su quelli che già ci sono, ma la capacità di ripercorrere quei mondi e di renderli più densi di significato. Questo credo che sia utile per chi legge, utile per chi sta in provincia. C'è da ricordarselo un po', cioè non è che Grosseto sia migliorata, forse è anche peggiorata, Ora ne parlavamo anche prima, io non la frequento più così tanto, però non è questa meraviglia, c'è da ricordarselo sempre che comunque vivere in provincia è qualcosa con cui bisogna fare i conti quotidianamente, sia un'età giovane che un'età più avanzata, anche chi è più abituato al vivere in provincia ci deve in qualche modo fare i conti, deve fare i conti con quello svuotamento, con quella bruttura, con quella rigidità anche che poi contraddistingue la provincia. Rileggendola, ripercorrendola, ritrovando tutte quelle storie dentro, perfino l'eroina, che comunque è qualcosa di, come si scopre dal libro, qui io su questo però ecco, consiglio sempre più di leggerlo che di discuterne, perché è tutto là dentro. Perfino l'eroina, che è comunque una storia, si diceva, effettivamente tragica, questo tipo di dramma invece arriva a essere qualcosa di più, una storia che conferisce dignità a qualcosa che di suo non ha granché da dire, invece si riempie di storie che poi creano qualcosa e a livello ideologico e a livello di generazioni, quindi a livello storico, e allo stesso tempo ne esce, quindi è una storia, ecco, magari mettiamola anche che finisce bene, mettiamoci anche questo, perché per carità, avessimo dovuto raccontare una storia tragica che finiva male, forse non andava in questo modo, ma non è detto. Io credo che la possibilità di pensare, come abbiamo detto all'inizio, di usare questa lente per poter ripercorrere tutto questo, ci dia molti più elementi per pensare a quello che è la nostra condizione di adesso, e della mia generazione e della tua, e probabilmente anche di quella di cui stai parlando, quella che ha costruito questo tipo di mondo, perché è quello in cui ci ritroviamo, che è passato innegabilmente una storia comune di eroina, una storia comune a probabilmente tutta l'Italia se non di più, ha costruito passando attraverso quello, questo tipo di paese, questo tipo di momento storico. E adesso ce lo viviamo anche noi, ecco perché io insomma qualche responsabilità tutto sommato la do, però allo stesso tempo ne devo essere consapevole, ed è questo probabilmente la sensazione maggiore che ho sentito da questo, la possibilità di avere una dignità provinciale, rendere comune la provincia a tutto quello che le sta intorno, al mondo. La provincia assomiglia al mondo, ma non c'è bisogno soltanto di immaginazione, si può raccontarlo anche attraverso la storia. Questo probabilmente è la sensazione più importante di questo libro, che io trovo veramente pertinente e veramente importante per questo periodo, perché ci sono poche elaborazioni storiche che riescono a farlo con questa delicatezza. Si rischia di essere sempre troppo ideologici o troppo freddi o troppo fiction. Invece questo incontro è formativo. No, io sulla questione degli ideologici ci spenderei un minuto, perché ovviamente quando si parla di discorso dell'eroina bisogna fare i conti con un grande luogo comune, cioè il luogo comune più grande che c'è sull'eroina a partire dagli anni 70, quindi un luogo comune nato nel momento in cui il fenomeno si realizzava in qualche modo, è che l'eroina fosse uno strumento del potere per distruggere i movimenti politici. Questa cosa la pensano ancora tantissime persone, io scommetto che pure qualcuno qua dentro la penserà, ed è veramente il senso comune più persistente su questa questione. Ora, io credo che sia nostra responsabilità in questo caso, non solo, come dire, di storici, ma proprio di cittadini, di esseri umani, fare i conti con questo luogo comune, che è il più deresponsabilizzante, no, dei discorsi, perché pensare che siamo sempre eterodiretti, che c'è sempre qualcuno che ci impone il mercato, il neoliberismo, cioè che c'è sempre un'entità più grande di noi che in qualche modo predetermina le nostre scelte, no? Gli insegnanti a scuola che mi dicono la 107, la buona scuola, il neoliberismo, io non posso lavorare, però in classe la mattina c'entri te, con 25 ragazzi ci stai te, sei te che tutte le mattine imposti una relazione, sei te che imposti la relazione sul potere, sull'insegnamento, sulla fiducia, sulla crescita delle persone che hai di fronte, no? Allora questa grande scusa degli altri che ci impediscono di fare le cose come dovremmo farle, secondo me è una grande lezione di metodo sulla quale dovremmo ragionare, e in questo caso l'eroina è veramente una cartina di tornasole meravigliosa, perché veramente su questo tema non siamo mai andati oltre il discorso, ci hanno voluto distruggere, hanno voluto distruggere i movimenti immettendo proprio, c'è chi se la immagina proprio come una cosa fisica, la CIA, l'operazione Blue Moon, la gente del caos, la polizia, le fake news, e così c'è stato anche questo, ma questo non spiega centinaia di migliaia di persone che a un certo punto hanno iniziato appunto a usare l'eroina, e su questo in qualche modo allora bisogna andarci un po' più di fino, insomma, no? Andare un po' più a vedere l'eroina è entrata a destra, a sinistra, nella borghesia, negli strati popolari, in contesti dove non c'era nessun tipo di formazione politica, nessuno. Contesti altamente politicizzati, in contesti altamente colti, in contesti altamente ignoranti, è stata estremamente democratica da questo punto di vista, no? Non ha stroncato un movimento, ha stroncato una generazione, due generazioni, tre generazioni, e sta continuando a farlo. Mentre finivo il libro morivano Pamela e Desiree, e io pensavo che quella che pensavo fosse una questione storica in qualche modo da mettere da parte stava tornando prepotentemente a investire le vite delle persone che avevano l'età delle mie figlie. Questa cosa, no, io pensavo di scrivere un libro su mio padre e invece mi scoprivo a scrivere un libro sulla generazione di mia figlia. È stata una roba scioccante per me, no? È come veramente lui ha deciso di portare a conoscenza quella che è la situazione, insomma, capite benissimo qual è il punto. Moriva, il libro è uscito poco dopo che Desiree veniva trovata morta a San Lorenzo, che nascono da due esperienze purtroppo fatte in carcere dagli autori. Perché allora noi continuiamo a guardare a questo fenomeno come un fenomeno appunto di eterodirezione legato a un tentativo di smobilitare forme di conflittualità politica? Non va bene, perché Desiree non aveva nessun tipo di militanza, così era una ragazzina di 16 anni che stava all'interno di uno stabile abbandonato nel cuore di Roma, nel quartiere universitario più grande d'Europa, sotto gli occhi di tutti noi adulti che l'abbiamo vista crescere, entrare dentro quelle scuole di merda dove insegnanti non si saranno resi conto di lei, neanche gli insegnanti democratici avranno pensato che era una predestinata che doveva essere bocciata una o due volte, probabilmente buttata fuori da scuola. No? Allora, questo, quando parlo di smontare un discorso, io parlo di questo, cioè di guardarsi innanzitutto noi. Noi che stiamo qua adesso, e di pensare quali sono, come dire, quei grandi macrocosmi ai quali io attribuisco la responsabilità delle cose che poi io faccio tutti i giorni, no? Esiste, lo faccio mai io questa cosa? Cioè c'è mai un momento della mia giornata in cui io dico cazzo io non posso fare questa cosa per colpa del neoliberismo o per colpa del appunto di altri che non vogliono che io faccia questa cosa? Qual è l'esperienza che un prigioniero, quando lo faccio, fa in Bielorussia, un prigioniero, come in dire, generale, l'obbligo deve essere di mettermi lì e scendere, io sono e di dire ok, ma io dentro questa dimensione fin dove posso arrivare, no? Fin dove posso operare una scelta e cambiare quello che ho di fronte a scuola, nelle relazioni, nella famiglia, ovunque, no? Questo veramente è una specie di battaglia che faccio anche poi con persone che sento molto vicine a me, perché poi appunto ritornando alla storia di mio padre è fondamentalmente la storia di una scelta individuale, singola, fatta di una persona, Mauro Roghi, che con una figlia di 10 anni e con tutte le condizioni migliori economiche che poteva avere una persona nel 1982, ha perché deciso fino a metà degli anni 90 molti suoi in amici non lo facevano, c'era un governo molto molto autoritario. Ti assicuro non c'era la CIA. and also this to in quella direzione, political prisoners, c'era they got imprisoned in relation c'era to one and the same case in 2010. C'era qualcosa che aveva a che fare molto di più con una dimensione individuale che stava però dentro una storia di lunghissimo periodo, che è quella della ricerca della felicità, della ricerca actions, del desiderio e della, sospensione del dolore, di relazioni cercate in modo più semplici. E poi, se proprio vogliamo metterci la politica dentro, allora per me è vero il discorso contrario, che non è stata l'eroina a distruggere i movimenti, ma sono stati i movimenti a distruggere i movimenti, e l'eroina è stata una via di fuga. Questo lo racconta bellissimo Filippo Scozzari nella sua bellissima autobiografia. Gli attivisti anarchici in Bielorussia sono stati più attivi, scusate il giro di parole, La sua autobiografia bellissima si chiama Prima pagare, poi ricordare, vi consiglio di leggerla. E lui a un certo punto dice: io conosco tante persone che hanno iniziato a farsi le pere perché andavano a quelle riunioni pesantissime di politica, dove c'erano gerghi incomprensibili e dove la violenza stava entrando. Entrambi gli autori dei due libri sono stati arrestati nel 2010 per fondamentalmente perché anarchici, sotto l'accusa di aver fatto qualcosa contro le istituzioni. Pur vero che lo ribadiamo, la storia non giudica, no? Di conseguenza, so they dentro have something symbolic against the institution. I mean, without killing people or something like that. Il tuo libro, come dire, si racconta and una storia, ma non si at the court, prende there was not una enough evidence. E forse anche questo, certo, è la capacità di done particular poi actions. It was obvious that actions were done by anarchists in qualche modo, and authorities more or less decided to pick la bontà è anche che riusciamo a creare some anarchists and sentence them. Autonomamente rispetto a questo, così questi due ragazzi, questi due giovani autori sono stati arrestati soltanto perché la polizia ha fermato casualmente all'interno del movimento anarchico qualche persona senza avere prove concrete, sono stati voler fare incarcerate. Inoltre, che purtroppo anche l'Italia sta c'è diventando la in qualche modo preventivo, sono dei passaggi senza che secondo me prove a carico dei oltre perché abbiamo parlato finora effettivamente di un libro storico anarchici prese posizione anche su un discorso politico, però non si parla della parte sensibile in realtà del libro imprisoned che invece cioè è tanto io più di dilungarmici the most spectacular story is that of Ivo Dalinievich because molto breve, he was before the trial he was held come, first he was kidnapped not detained normally regularly but kidnapped a suggellare in Moscow di by bambina con questo a Russian mondo secret service and then transferred to the Belarusian secret service and kept there in secret service prison in KGB prison. Dal Cro-Marcusia, la scusate, storia più luce pazzesca è stata quella di Nicola, perché lui è stato praticamente sottratto dalle autorità russe, si accontenta è stato di fatto sparire per giorni e, forse e soltanto dopo sociali, è stato così, diciamo così, processato. Giornalista, quindi nel è 1968, stato proprio un rapimento spiega, da parte grazie, delle che autorità cosa russe vuole essere contro Linus, questo la rivista giovane, simbolo del decennio che sta per arrivare. Oggi studente. Linus in copertina ha quasi sempre qualche personaggio dei Peanuts, a volte di Altan, Orrore e Incanto. Ah, scusate, c'è è il Charlie primo, Brown, quindi perché c'è Ivar questo di intenso in quelle copertine, can che l'orrore vi sia alternava all'incanto. Sto chiedendo a Vlado se mi aiuta con la giusta pronuncia, perché senza che io, bambina, potessi capire perché ha scritto Michele Mai delle copertine della collana Urania, so è dello stesso KGB. Io così leggo Linus, senza saltare una parola, e accanto a Lucy, Schroeder, Stupi e Woodstock scopro i fumetti di Milo Manara, so di Guido Crepax. Linus non è certo una rivista before, pensata per i bambini, è il cortocircuito educativo che deve aver provocato in chi come me l'ha letta intorno ai 7 anni e ha ancora tutto da studiare. Così, attraverso le lettere a Linus e i fumetti di Frigidaire scopro che la droga esiste ed è un problema. Ma non lo associa al narghile a mio padre, la droga sta nei fumetti. la droga è quella cosa che te la mettono nelle caramelle che ti regalano davanti a scuola. La droga si attacca come una malattia. La droga è l'incubo insieme ai rapimenti delle mamme dei papà normali. Quando esco da scuola sto attento al destino di un bambino che viene rapito e trovato dalle caramelle. Se dovessi sfuggire a questo destino c'è la bomba atomica, tutte le persone sarà sganciata durante la terza guerra mondiale che è prossima. L'ha detto Ronald Reagan, che se i russi non la smettono finirà così. Non supportati il regime, quindi con la scoperta dei cartoni animati giapponesi, liberali, Candy Candy va in onda per la prima volta in Italia nel 1990. Abbia detto qualcosa contro il regime, è stato arrestato, ma non arrestato in maniera tra virgolette legittima, ma semplicemente fatto sparire in una prigione del KGB. Ma quando dove arresta mio padre sono per uso e spaccio di eroina, torturate. Io ormai 15 anni su di lui non scrivo perché la cosa che mi sta più a cuore è il ragazzo che mi piace. E in 1987 faccio una quinta ginnastica nell'unico liceo classico di Grosseto. No, e questo passaggio effettivamente è veloce, ma racconta un passaggio per me epocale, che è il passaggio dal grande interesse verso il mondo dei miei genitori a un mondo mio autonomo, nel quale l'immaginario cambia completamente. E appunto da Linus, che per me era nell'infanzia l'alfa e l'omega di tutto, poi si sposta completamente invece su storie mie, che erano appunto da Candy Candy, poi a at that point poi per fortuna mi sono emancipata da Candy Candy ai ragazzi insomma a 15 anni okay. Comunque sì, questo libro lui è anche non è un libro falloso come sembra avendovelo raccontato io fino adesso, è anche un libro dove dentro c'è una dimensione individuale autobiografica che molti amici mi hanno detto avrebbero voluto fosse più maggiormente indagata. Io avendo la situazione anche per colpa di mio padre, essendo stata sempre povera perché i soldi se li spesi tutti lui per farsi eroina, non ho mai potuto fare analisi e quindi il massimo al quale sono arrivata è stato questo come profondità. Però a parte gli scherzi, anche le parti autobiografiche invece sono importanti, e ce n'è una all'interno della carcere e poi diffuso, insomma ce ne sono diverse alle quali sono molto affezionata, cioè per dire appunto proprio le origini di queste famiglie povere che arrivano in Maremma e attraverso il boom economico poi costruiscono questa strada, questa autostrada del benessere che mio padre percorrerà tutta quanta allegramente. Però poi c'è anche il racconto che interseca la storia nazionale con quella locale di come arriva l'eroina in Maremma, e questo io ho avuto la fortuna di avere testimoni ancora vivi che me l'hanno potuto raccontare, quindi magari questa è una cosa che mi piacerebbe raccontarvi perché appunto tiene insieme Follonica, Grosseto, Orbetello, che a questo punto dopo stasera diventeranno veramente il triangolo delle Bermude d'Italia. E appunto siamo nei primissimi anni 70, un amico del gruppo insomma fa l'università a Firenze inizia ad arrivare diciamo la prima droga pesante e poi iniziano i viaggi. C'è un viaggio che viene raccontato per cui a un certo punto vanno in Colombia e chi me l'ha raccontato nel libro per proteggerlo, visto che per fortuna è vivo, sta bene, continua a vivere a Grosseto, io l'ho chiamato Zanardi in omaggio a Pazienza. Zanardi dice appunto che va in Colombia e dice a quei tempi non c'era Escobar e quindi era molto facile ritornare dalla Colombia con un sacco di roba e quindi loro ritornano in Maremma con questo sacco a pelo pieno di cocaina, marijuana e proprio qualsiasi cosa. Ora vuole il caso che una delle tre persone che aveva fatto questo viaggio fosse di Follonica e quindi nasconde tutta questa refurtiva nel soffitto di casa dei genitori, probabilmente minatori a Scarlino, piccolo posto veramente più piccolo di Follonica. Però dice appunto Zanardi uno di noi era particolarmente sborone, insomma era uno che gli piaceva molto vantarsi le cose che faceva e offre a tutta Follonica erba e coca, così chiaramente un paese sballato in una settimana sotto gli occhi di tutti. Dice non è che ci voleva ovviamente l'ispettore Montalbano per capire che c'era qualcosa che non funzionava e quindi quindi chiaramente tutti si accorsero che era arrivato qualcosa così, furono immediatamente beccati, gli amici di mio padre andarono a buttare tutta questa roba in un fosso sull'Aurelia e per quella volta andò bene, ma dice da quel momento iniziarono i viaggi, iniziarono per cui si andava in India, c'era una farmacia dove si sapeva che si poteva comprare l'eroina e riportarla pure in Italia, i viaggi in Olanda dove arrivava la thailandese, perché quelli erano gli anni anche che grazie alla guerra del Vietnam avevano visto un nuovo e grandissimo movimento di eroina dalla Thailandia. To get advantage, they are prisoners, they too, but they cooperate with the so-called operative to get something, for instance, food or esattamente, questo è un dato fondamentale. Cioè, no, perché quando appunto Zanardi diceva Escobar, è che era una cosa che si poteva fare a livello proprio individuale. Si partiva, si andava in India, si andava in Colombia, si andava in Olanda, si riportava. Ancora, soprattutto in provincia, non c'era stata quel suggello che sarebbe arrivato di lì a poco con la banda, per esempio, della Magliana a Roma e col grande qualche piccolo vantaggio spazio internazionale. In questo la Maremma, devo dire, possiamo vantarci di essere stati anche lì dei precursori, perché appunto nel dopoguerra, anche qui per mettere insieme storia individuale con storia generale, il grande commercio internazionale di eroina lo facevano i marsigliesi. I marsigliesi usavano l'Italia come la portaerei della droga, si diceva negli anni 50. Perché? Perché arrivava dalla Turchia, passava in Italia, veniva raffinata a Marsiglia e poi andava a Marsiglia, veniva raffinata e poi dall'Italia partiva verso gli Stati Uniti. Ancora l'Italia non era un terreno di consumo così importante. Quando negli anni 70 anche l'Italia inizia a diventare un luogo interessato al consumo, perché poi c'è una domanda chiaramente arriva l'offerta, la prima retata fra virgolette di marsigliesi in Italia si ha nel 70 ad Anzedonia, quindi sul Monte Argentario. Perché la Maremma, questa vi giuro è l'unica battuta che faccio in tutto il libro, però ci sono tanto affezionata perché quando l'ho fatta a me mi ha fatto tanto ridere da sola, perché praticamente la Maremma era nota a chi voleva fare le cose di nascosto. Tempo, tant'è vero che Garibaldi quando va in Sicilia, dove si ferma a Talamone, Talamone tradizioni ovviamente socialiste, ma anche luogo, per chi conosce l'Argentario, nascosto, con un porto facilmente accessibile, però fuori dallo sguardo insomma più aperto di altri posti di mare. È terra di contrabbando. Quindi l'unica battuta del libro è questa: dopo l'eroe dei due mondi, anche l'eroina passa dall'Argentario per arrivare in Maremma. Però al di là della battuta è vero, appunto, cioè il Monte Argentario, con quella sua conformazione fisica e geografica, è immediatamente un luogo interessante. Poi lo diventa ancora di più perché iniziano a mandarci al confino è andato avanti anche mafiosi, e questo chiaramente crea una sinergia. Il controllo che poi è un'altra storia, per cui alla fine degli anni 70 e 79 ci saranno grandi inchieste sui traffici di armi e droga che passano sempre dal cadere sotto il controllo delle autorità, perché dice pure l'aeroporto militare a Grosseto. E poi c'è Ustica e vabbè, before insomma, we have spoken about the endless prison, that means that you are never sure when you will get free. Io, se ci sono degli interventi, diciamo che è il momento di farli. Ora mai più, Years, just for having committed some, I would say, little action, such as they find dust in your cell, no, prima volevo or fare una you have worked in an unbuttoned jacket. Che io condivido, just for this you can have punishments, and this means that you will che get dice giustamente not che your dai margini freedom si osserva when you meglio il centro, sia una squadra insomma più precisa. Yeah, that's what actually poi, happened to Nicola the book, that after serving his, like, shortly before serving his sentence, before the sentence finished, di Calderio, che io ho letto, ho trovato un libro bellissimo, mi è piaciuto in the prison, tanto, and he che però ha una grande year differenza year col tuo libro, secondo me. Sì, il numero di copie vendute. A parte il numero di copie vendute, che è il suo libro è Amnesty and Many Political Prisoners on both per cui two books, they were released. Limonov per parlare di se stesso, a differenza tua che Nicola usi faced se stessa per parlare di una storia, tant'è che se Kaleev non fosse uno scrittore così bravo, secondo me sarebbe venuto fuori un libro stucchevole, insopportabile, prisoner fastidioso, was non-cooperative, and a differenza add tua one che appunto ti poni al servizio come and, voce, come io narrante, come punto di vista per raccontare questa decision, storia, but it is, creando così like secondo me anche una fortissima empatia nei confronti di chi legge, there is no limit per esempio on io how many times non mi ricordo se pagina 6 o 7 già stavo piangendo of, io piango facilmente sentence. Quindi forse non faccio testo, però magari gli altri impianto pagina 30 quindi un pochino più avanti, però insomma comunque c'è questa fortissima empatia che è successo a Mikola, che lui per comportamento diciamo non conforme la a quello che è l'ordine carcerario, che questi comportamenti sono chiaramente posizione, prove che non esistono, che sono reati dalle autorità stesse del carcere, senza giudicare, e a Mikola è accaduto di essere che la sua pena sia stata prolungata giusto, di un anno buono, bravo. Ed è riuscito e ad uscire dal carcere soltanto perché nel 2015 il presidente ha fatto una grande amnistia e quindi è riuscito a uscire dal carcere. Prendi una posizione aveva avuto appunto per comportamento non conforme, senza mai non meglio specificato, morale, ha avuto un anno che deriva dal in fatto più. Che usi and, te stessa non come this fine means that, when you are in incombere prison, tu con every tutto il giudizio year, morale sulla storia you, usi te stessa come run into mezzo a new necessario trail, a new process, a raccontare quella storia and this means that beh, grazie. They, the authorities can give you further years to stay in prison just with invented proofs against you. A pianta a pagina 1 è bello. Group recently publicized the case when the so-called ordinary criminal, so the person who was sentenced for some like stealing something, was after questo the sentence ended. Non è che me lo porto dietro, questo è un no, cioè è un caso, è un, mi sembra un grandissimo privilegio per me like avere una, insomma, una persona testimone Paswani dei fatti. Paswani for non-cooperating with prison administration. So in case of political prisoners, on the one hand sometimes prison authorities put additional, additional attention and additional pressure on them. But on the other hand, ordinary prisoners are deprived of media attention and they are deprived of this protection which media attention can give them, and so they sometimes face even harsher situations than political prisoners. Pazzesco, è stata fatta una lista di alcuni casi e diceva Vladimir per esempio un criminale, definiamolo così, comune, appunto queste parole siamo un imbarazzo sia io e Vladimir perché il concetto di criminale non ci appartiene, un ladro ordinario che si è fatto 8 anni di carcere in più perché accusato di non aver cooperato con le autorità del carcere. E Vladimir sta spiegando che talvolta essere prigioniero politico può essere tra virgolette più facile rispetto alla vita che fa un definiamolo così criminale definito comune, perché sui prigionieri politici c'è l'attenzione della stampa, mentre i criminali comuni sono lasciati abbandonati a loro stessi, alla stampa non interessano e quindi possono incorrere anche in, definiamo le torture, perché sono di fatto torture psicologiche ancora più, più gravi. And does in Bielorussia exist a free press, a free media? Can media tell the truth or it's dangerous for them? Se in Bielorussia la stampa, i media sono liberi, possono schierarsi liberamente o se incorrono in provvedimenti pericolosi. Well, of course authorities try to contain media as much as possible, but there are still some media often sustained by Western governments like mostly liberal media, most often with a neoliberal economic agenda, but they are independent from Lukashenko's government, and sometimes they are also like because of their funding, they also are limited in their scope, like it happens elsewhere, but independent from Lukashenko. And they criticize the government openly, but government tries over and over again to contain criticism and to implement more and more laws against this press. And there was a recent case when many journalists were suspects in the case, and then one journalist came to the court as accused for allegedly stealing the information from the governmental press agency and to create publications on their websites. It was more or less fabricated case, and it was used to intimidate these journalists. But on the other hand, the journalist community responded to state repression with unity and a lot of support to these journalists. Diciamo che quello che dà forza è l'unione che c'è tra i giornalisti, perché la stampa è tra virgolette libera, però se tu attacchi il governo in maniera aperta, chiaramente incorri poi in delle repressioni. È quello che per esempio è successo a un giornalista che è stato accusato di aver rubato delle informazioni governative e di averle poi diffuse sui social, e chiaramente lui è stato supportato dai suoi colleghi giornalisti. Esistono giornali che io sono finanziati. Io, se siete d'accordo, chiuderei dicendo una cosa, ma se posso. Diciamo che intanto, soprattutto è la forza, no? La coesione che c'è tra giornalisti, cari, che permette di poter criticare sono il molto governo felice e che ci siano alcune istituzioni. No, allora, lo diceva prima Francesco, io questa storia probabilmente l'ho scritta perché instance, è finita bene, in, Italy, nel senso che appunto anarchista support homeless più difficile people, se mio padre fosse stato uno dei tanti suoi amici che è morto per l'AIDS for oppure health, per un'overdose, so on, ma soprattutto for per l'AIDS, because, here, for instance, e in tanti, Italy, tanti, probabilmente right c'è avuto un culo della Madonna, more io sempre, mi sono sempre immaginata gli anticorpi di Babbo come quelli del corpo umano, del cartone animato del corpo umano, però grossi proprio. Job, so unemployment, health, sì, era sotto spirito, quindi probabilmente, esatto. Però insomma questo sicuramente è stato determinante. Io vi leggo insomma l'ultima, cioè non è uno spoiler come direbbe harassment, but still, mia figlia, però ci tengo a chiudere con questa cosa. Continue to deliver free food for homeless and protest walls. And anarchist as political force cannot, ecco, questa è però una cosa secondo me importantissima. In our situation cannot go to public entities and demand ho spiato la vita degli altri, ma senza example, capirla bene e senza saperne nulla, tirando a indovinare e fingendo di sapere. Scriveva Natalia Ginzburg a proposito del suo esito familiare. Ecco, io ho avuto probabilmente, ho fatto allo stesso modo, ho avuto spesso l'impressione di procedere allo stesso modo. Sì, mio padre non l'ho mai intervistato, non volevo che il suo punto di vista si sovrapponesse al mio. Hanno casa, così in qualche modo ha spiato la sua vita, ho tirato a indovinare e in fondo hanno, ho finto di sapere. L'opportunità, quello che so per diciamo, certo è che mio, per mio padre l'eroina sarà un'esperienza che poi è finita autorità, presto. Dopo il 1987 scagionato per le questioni di spaccio ha smesso. Oggi io e lui ci sentiamo su WhatsApp. Lui abita in Olanda, fa il pensionato, sta bene. Qualche dolore qua, qualche dolore là, le anche, il ginocchio, gli acciacchi dell'età, ma tutto sommato, anche con la vita che ha fatto, sta bene. Dall'eroina è uscito, io non so con quanto dolore e non so con quanta fatica, ma è una storia che si è lasciato alle spalle. Quando facevo il liceo avevo studiato Ugo Foscolo e c'era una cosa che mi era rimasta impressa. La storia della figlia, io non so se voi ci avete mai fatto caso, per me era un tormento. Io pensavo, guarda questo, che ogni volta che va a letto con una donna ci scrive sopra un carme e poi ce lo fanno studiare a scuola. Poi quando diventa vecchio e non lo vuole nessuno, dove va? Dalla figlia a Londra, che se lo riprende a casa. Io mi sentivo un po' predestinata a fare la fine della figlia di Foscolo e invece non è andata così. Quando avevo 20 anni mio padre è partito, ha venduto la sua ultima casa ed è partito per il giro del mondo. Mi ha scritto dall'Australia dove voleva aprire un bar itinerante per gli aborigeni, poi dalle isole Fiji dove ha allenato una squadra di calcio facendosi passare per l'ex allenatore della Fiorentina. Mi aveva mandato un ritaglio di giornale che ho perso. A quei tempi non esisteva internet e ogni italiano poteva farsi passare per un ex allenatore di calcio importante con un po' di fantasia. Per cui a me mi arrivò questo ritaglio di giornale delle Fiji in cui c'era scritto l'ex allenatore della Fiorentina Mauro Rughi sta adesso allenando la squadra di calcio dell'isola. Poi è finito ad Amsterdam dove ha cercato un impiego in un'agenzia di lavoro interinale, è entrato in fabbrica, ha fatto il sindacalista, si è sposato e ora coltiva i pomodori. Olandese non ha niente da invidiare a quello di sua madre, Isolina. I bambini della scuola elementare al di là del giardino lo chiamano Opa, nonno. Mi ha detto la settimana scorsa che adesso va a fare i corsi di volontariato nella scuola elementare e insegna ai bambini a farsi l'orto. Lo dedico agli altri, lo so bene, io gli voglio bene, sono orgogliosa di lui e le mie figlie lo sanno, è il loro nonno speciale, del resto è l'unico che hanno. So bene che ho potuto scrivere questo libro perché questa storia è finita così, è finita bene. Lo dedico quindi agli altri bambini e bambine, uomini e donne che non hanno trovato la voce e le parole perché ancora arrabbiati o solo immensamente tristi. Agli amici di mio padre, quelli ancora vivi, che si vergognano di parlare con i figli e le figlie ormai grandi di un passato complicato e confuso. Quelli che mi hanno chiesto di omettere il loro nome perché la morte dei loro cari per overdose è uno stigma sociale insuperabile. A quelli che non ci sono più, che ricordo da bambina e ora non ci sono più, la maggior parte è morti di AIDS. Lo dedico a Nadia Terranova, che ha scritto un libro su suo padre, lavorava, bellissimo, morto di AIDS, a Teresa Ciabatti, che mi ha fatto capire l'anima nera di Grosseto, e a Silvia Ballestra, un'altra scrittrice, che è stata la prima a ricordare, a ricostruire e tematizzare l'arrivo dell'eroina in una piccola città. Sono tutte persone che hanno fatto i conti quindi, in un modo o in un altro con i loro padri e mi hanno aiutato a trovare il modo per farlo anche io. Quindi io vi ringrazio tantissimo. E spero che lo leggerete. Lo stesso la cifra per grazie anche da parte mia del dolore. La famiglia grazie a Vanessa, comunicazione di servizio, questo libro è là fuori, tipo, l'autrice e quindi può firmarlo. Ucraino soltanto per non avere la cittadinanza è morto di cancro soffrendo. And is there something else you